Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Vi parlo di un romanzo noir ambientato a Milano e lo scrittore lo conoscete bene, sì, lo conoscete decisamente bene. Lui è Enrico Ruggeri, ok, il cantante, ma gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono anche perché è il conduttore del programma Il Falco e il Gabbiano, che va in onda tutti i pomeriggi appunto su Radio 24 dal lunedì al venerdì. Non tutti sanno che Enrico Ruggeri è anche scrittore e soprattutto di noir, perché in questo Un prezzo da pagare, pubblicato da Mondadori, torna tra l'altro un personaggio che ormai possiamo definire seriale da parte di Ruggeri, che è quello di Antonino Lombardo, vicequestore aggiunto. Allora Enrico, parliamo un po' di questo tuo personaggio seriale, ormai lo possiamo definire così, perché poi insomma i noiristi sono molto affezionati alla serialità. Ma è un uomo del sud che si presume abbia 55 anni e secondo me è arrivato a Milano a 15 anni, fai conto, 20. Quindi ha una serie di qualità, diciamo, da uomo del sud, con un po' di pragmaticità milanese, come decine di migliaia, credo centinaia. Anch'io vengo dal sud, esatto, sono da 20 anni a Milano. Come centinaia quindi di migliaia di milanesi. E quindi in qualche modo è una persona con una vita normale, se non fatto salvo il fatto che poi quello che per lui, che per gli altri sono, non so, stare in ufficio, per lui magari vuol dire vedere un morto o fare o interrogare. Del resto fa il vice questo riaggiunto, per cui quindi è un commissario che non giudica, che parte dal presupposto che la prima persona da conoscere nel caso di un delitto sia la vittima, mm-hmm, e quindi in qualche modo che svolge le sue indagini anche in maniera sorniona, cioè non è uno aggressivo, non è quello che arresta, ferma tutti subito e ti tiene 18 ore fino a che non confessi, ci arriva piano piano con i suoi tempi. C'è un giochino che faccio sempre con i noiristi, insomma, che hanno i personaggi seriali, in genere sono personaggi insomma un po' borderline, che quindi non so, bevono, fumano, vite sentimentali disastrate. Sì. Allora ti chiedo, due pregi di Antonino Lombardo e due difetti? Ma il pregio credo sia questo, che non giudica e non è affrettato. E il difetto è che è un po' distratto in famiglia e che è abbastanza sregolato nel mangiare, un po' goloso. È un po' cicciottello anche. Un po' cicciottello, un po' sovrappeso, dovrebbe dimagrire, ma questo, ma io non lo farò dimagrire. No, non farlo dimagrire, mi raccomando, la prova costume non c'è per esatto. Antonino Lombardo. Ma no, perché tanto non fa tempo andare a trovare la moglie, quando arriva deve tornare indietro. In questo caso si trova ad indagare sull'omicidio di una soubrette televisiva che si fa chiamare Patricia Calvi, in realtà insomma è uno pseudonimo, sì, però questo importa relativamente. Allora, intorno a questa Patricia Calvi girano una serie di personaggi. Allora, si potrebbe sospettare il suo manager, si potrebbe sospettare il suo fidanzato dal quale lei si sta più o meno allontanando, si potrebbe sospettare un fan un po' stalker, si potrebbe sospettare la sorella Cristina, che è un po' invidiosa, insomma vorrebbe un po' prendere anche la sua strada. Noi naturalmente non diciamo qual è il colpevole, però in che modo tutti questi personaggi giravano, o meglio, intorno alla vita di Patricia, e in che modo Antonino Lombardo inizia a seguire la sua pista? Ma intanto il nostro commissario prima deve raccapezzarsi, perché è un mondo nel quale all'inizio non è un mondo di cui non capisce le dinamiche. Lui parte dal presupposto che deve capire come si muovono un po' queste persone, poi si stupisce e un po', secondo me, si amareggia per il fatto che si rende conto, essendo un uomo già un po' âgé, che oggi le persone diventano famose anche per motivi che sfuggono alla logica, no? In effetti, io che sono ancora più âgé del commissario Lombardo, noto che quando io ero bambino quelli famosi erano obiettivamente i più bravi. Si chiamavano Gassman, Sordi, Mastroianni, Rivera, Mazzola, cioè adesso erano basta i più partecipare bravi. Magari esatto. Anche a un talent, sì, o comunque piegarsi famosi a una serie di dinamiche. E quindi in qualche modo il commissario Lombardo, tra curiosità e indignazione, prende possesso un pochino di alcune nozioni su questo mondo, sul mondo dello spettacolo, che è fatto anche di notizie inventate, di televisione manipolate, di arroganza. Si sente un po' pesce fuor d'acqua. Allora i suoi assistenti più giovani in qualche modo due cose gliele spiegano, però lui si trova anche di fronte all'arroganza del potere, perché il mondo dello spettacolo oggi genera persone di un'arroganza inimmaginabile. C'è il mondo dello spettacolo, c'è un po' anche il mondo della musica, insomma mondi che Enrico Ruggeri conosce sì. bene, nel senso che è logico che qualunque scrittore poi va ad attingere al mondo che conosce meglio. Sì, questa è la norma principale. Scrivere un romanzo sulla Vienna dell'Ottocento sarebbe stato più problematico. Lì allora devi studiare. Qui invece il romanzo è ambientato a Milano in zone che io potrei girare a occhi bendati e su un mondo che conosco bene, insomma non mi avventuro troppo lontano. Ecco, scrivo. Si tratta di fiction, però insomma quanto è veritiero lo sporco che tu racconti riferito a quel mondo lì? Credo di averne raccontato un 20-30%. Che la verità ancora, è ancora di più. Avrei ancora del materiale da notevole. No, diciamo che è un mondo arrogante, un mondo in cui il potere viene fatto pesare pesantemente anche nei rapporti interpersonali, anche nei rapporti umani, anche in quelli affettivi e sessuali. Questo tanto per cominciare. E poi è anche un mondo nel quale si muovono personaggi di contorno, un po' cialtroni, manager che magari non valgono nulla a meno che a un certo punto diventino per miracolo i manager di qualcuno che ha un'impennata, e allora tutti quelli che prima non rispondevano e dicevano sono in riunione sono loro a cercarti. Insomma, questo è un mondo di gente che è sempre in riunione. Questo è un mondo nel quale quello che sta al terzo piano chiama quello che sta al quarto che non risponde. Quello che sta al quarto, mentre si deve liberare di quello che sta al terzo, sta cercando di parlare con quello del quinto che è in riunione, e così via, insomma. Per cui è un mondo terribile ma antropologicamente divertente da raccontare. Ecco, è un mondo antropologicamente divertente da raccontare, ma dimmi la verità, tanto siamo fra amici, sì. No? Fra amici di Radio 24, ti sei preso qualche, non so, non dico vendetta, ma no, insomma, perché qualche... intanto non ho fatto nomi, quindi non, no, non ci certo, sono... certo. No, insomma, mi ci sarei un po' divertito. No, ho rubato dei tic, anche a personaggi magari esistenti. Quindi magari in ogni personaggio che ho trattato c'è un 5% di qualcuno. Quindi non per fargli del male, anzi per ricevere almeno quello, ricevere di ispirazione. Quindi ci sono dei tic, delle situazioni, delle occhiate, delle frasi, degli uffici, delle ambientazioni che... sicuramente ho incontrato, però sono molto mischiate alla rinfusa, non perché non volessi mostrare le carte, ma perché il bello di quando racconti qualcosa è proprio quello, che la fantasia poi prende la mano sulla realtà. Enrico Ruggeri non è certo l'unico musicista che si è dato al romanzo, non so, forse il primo è stato Francesco Guccini, sì, ma sì. Poi c'è Ligabue, c'è anche il cantante De Negramaro, ma ce ne sono veramente sì. tanti che hanno fatto pura fiction, cioè non hanno scritto memoir o autobiografie. Il mondo dell'editoria, dei critici, vi guarda ogni tanto un po' con la puzza sotto il naso. Ricordo anche il caso di Faletti, no? Insomma, che appena pubblicò ed ebbe quel grandissimo successo, insomma, ebbe un po' di problemi con i critici. E lui addirittura era un comico. Ed erano anni in cui i libri dei comici vendevano tantissimo, ma erano cianfrusaglia, no? E poi invece arriva Faletti e stende il mondo. Arriva Faletti, scrive Io uccido, vende milioni di copie, insomma, sconvolge un po' il mondo dell'editoria italiano, che da alcuni punti di vista è veramente molto molto provinciale. All'estero questo non succede. Tu come la vivi questa? Guarda, questa io l'ho vissuta male all'inizio, fino al 2000. Nel 2000 io, proprio per questo motivo per cui dicevo qui che arrivano tutti, mi fanno fare i libri perché sono già famoso, nel 2000 ho mandato a Feltrinelli, a un editore che si chiama Alberto Rollo. Come no? Famosissimo. Ho mandato dei racconti facendo in modo che lui non sapesse che ero io. Ok. Quindi attraverso un amico che lo conosceva, ho detto gli porti questi racconti senza dire di chi sono. E lui, la Feltrinelli, ha detto belli, pubblichiamoli. E quindi questo mi ha dato a livello di autostima, mi ha rinfrancato, certo. No? Quindi mi avrebbero pubblicato il libro anche se io non fossi stato già famoso in un altro settore. Allora da lì ho preso un po' confidenza, però con grande cautela, umiltà. Poi al romanzo ho aspettato altri 5-6 anni per scrivere il primo romanzo, e quindi in qualche modo ci vuole cautela, perché in effetti in un paese in cui quelli che scrivono i libri stanno per superare il numero di quelli che li leggono. Beh, e in cui chiunque, cioè, ci sono cantanti che sono usciti da un talent 20 giorni fa e hanno già scritto le memorie della loro vita, per cui insomma capisco anche la diffidenza da parte della critica ortodossa. Posso dirti che io nei confronti appunto di musicisti o comunque di chi fa un altro mestiere e poi diventa scrittore ho grandissimo rispetto innanzitutto, ma tendo molto a separare le due carriere. Tu pensi che i lettori dei tuoi libri corrispondano a chi segue la tua musica o sono due pubblici diversi? No, in parte corrispondono, secondo me. Perché ci sono persone che, conoscendomi, avendo seguito il mio percorso, hanno provato soddisfazione nel vedere anche questa evoluzione del percorso. Quindi obiettivamente penso che si assomiglino. Però c'è anche da dire che siccome il libro lo leggi, la musica l'ascolti assieme, presumibilmente, il libro invece è un'attività solitaria. A due, no? E soprattutto è un rapporto a due. Certo. Quando tu leggi, sei tu e quello che ha scritto il libro, che magari è morto 400 anni fa, però comunque siete voi due. E quindi in qualche modo, secondo me, chi ama la parte cantautorale, riflessiva, meditabonda, magari si rivolge al mio libro. Insomma, quelli che magari mi conoscono per Si può dare di più e l'ultimo Festival di Sanremo magari saranno meno interessati e invece ne arriveranno altri. Ultima domanda, come mai la scelta del noir? Ma perché mi piace mettere persone normali a contatto con eventi straordinari, perché io credo che tutti noi abbiamo una parte di noi che non conosciamo e che forse è meglio non conoscere mai. Cioè noi non sappiamo come ci comporteremmo se vedessimo uno che sta annegando in un torrente, non sappiamo se saremmo pronti a buttarci, a rischiare anche noi la vita o se scapperemmo pavidi, non lo sappiamo. E quindi in qualche modo è un'estensione dell'anima il noir, quindi ci sono delle persone alle quali capitano delle cose terribili e quindi si completa la loro anima anche dalla parte buia, come girare dall'altra parte della luna, no? Ti piace quindi indagare la personalità del Sì, mi piace più quello che l'aspetto enigmistico del noir, non è tanto quello che mi intriga. Infatti il tuo noir non è un giallo, diciamo. Sì, mi interessa spingere all'estremo i miei personaggi. Grazie allora ad Enrico Ruggeri, ora in libreria, in veste di scrittore, assolutamente scrittore, con Un prezzo da pagare, pubblicato da Mondadori. Grazie a te. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che in estate il Cacciatore di Libri raddoppia, perché c'è l'appuntamento estivo il sabato e la domenica mattina alle 10 e quello consueto del sabato alle 6:30 per i mattinieri e alle 22 in replica per tutti gli altri. Le puntate d'archivio come sempre su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.